B. Ascolta ancora le frasi e indica cosa esprimono. 1. Andrei volentieri in vacanza, ma non ho più neanche un giorno di ferie. 2. Il professore non è qui. Non saprei dove è andato. 3. Scusate, potreste ripetere? 4. Al posto tuo direi la verità. 5. Cosa fareste voi in questa situazione? 6. Accompagneresti tu i bambini in piscina? 7. In questo negozio comprerei tutto. 8. Non aspetterei fino a domani. Andrei subito dal medico. 9. Dovrebbe restituire i libri entro 20 giorni. 10. La batteria dovrebbe essere carica.